già vinta la causa. Cosa sento? In quell'occhio cadea. Perdi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi di Antonio, che ha un infonito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto giova un raggiro. Il colpo è fatto. La speranza sola delle vendette mie, questa